L'unione dei gay è un matrimonio. Così si è espresso un noto teologo in merito all'argomento gay. Il matrimonio è radicato nella storia e nella cultura umana. Non è un'invenzione di ieri dell'uomo, e tantomeno è la reversibilità della pensione, più il dovere di mutua assistenza. Come sembrano volerci farci credere alcuni commentatori politically correct e anche alcuni degli stessi omosessuali. I modi di aggregazione di consanguinei e di affini, e cioè per intenderci le famiglie umane, possono essere e sono diversissime secondo i tempi e le società umane, ma la coppia tendenzialmente monogama è l'unione durevole di un uomo e una donna con i figli che da essa vengono generati, protetti e educati nella condivisione di una comune responsabilità fino a quando saranno essi stessi autosufficienti, è e rimane un fatto essenziale e universale della condizione umana, inscritta nella biologia. Il matrimonio è parte essenziale della storia e cultura di ogni civiltà che nella storia può presentarsi, e si presenta in forme giuridicamente diverse, come vediamo anche nella evoluzione recente del costume e delle leggi, che offrono riconoscimento e protezione alle unioni di fatto permanenti, dove alla base ci è pur sempre la stabilità del rapporto di un uomo e di una donna, e la comune responsabilità per la prole. Si tratta di un rapporto primario elementare, che legge e società possono regolare, e regolano diversamente, ma che non può essere soppresso né identificato con altre forme di convivenza o di associazione umana. Il matrimonio è dunque uno, e il sodalizio o un patto civile di due uomini o di due donne non può essere detto matrimonio neppure come metafora, a meno di cambiare il senso delle parole. Queste riflessioni, prese sul serio, possono dare una svolta decisiva all'argomento tanto dibattuto e controverso riguardante se ritenere l'unione dei gay un matrimonio o meno. Solo non molti anni fa, un problema del genere non era neppure pensabile o proponibile, ma dato che la morale dell'uomo e della società cambia, è ed era inevitabile che prima o poi ci si dovesse chiedere se è lecito un rapporto omosessuale e se questo rapporto possa chiamarsi matrimonio a tutti gli effetti. Non solo è lecito invocare la benedizione di Dio su una coppia omosessuale. Il problema se i gay possono dichiararsi sposati nasce prima di tutto dal modo di esprimersi. E questo perché viviamo in un'epoca dove la parola non ha più un senso vero e proprio, oppure, per dirla in modo più incisivo, le parole non hanno un significato che abbia il potere di cambiare o condizionare la vita delle persone. Nell'affermare questo, ho presente l'intervista che ho visto in televisione a due prostitute che si vantavano di fare questo mestiere. Durante la trasmissione queste due prostitute spiegavano il motivo di questa scelta, scendevano nei particolari più intimi di cosa facevano, esprimevano la loro soddisfazione nell'avere molti clienti per la loro professionalità. Si vantavano di avere relazioni ogni giorno con giovani sposati, vedovi e religiosi, ma soprattutto erano fiere della loro serietà, onestà e rettitudine. Ascoltavo l'intervista con un certo imbarazzo, e nella mia mente sorgevano infinite domande e interrogativi in merito al fatto che si ritenessero persone rette, fino a quando a una di queste fu fatta la domanda che a mio avviso era lo scopo di tutto il programma televisivo. La domanda era: secondo lei chi è una prostituta? Avevo gli occhi incollati al televisore, guardavo queste donne con l'attenzione di un leone che sta per piombare sulla preda. Cercavo di notare ogni minimo segno sulla faccia di queste due donne, e dopo aver notato un attimo di smarrimento, la risposta di una di queste fu: oh, che bella domanda! Vorrei saperlo anch'io! La risposta era seria, come del resto erano tutte le risposte che avevano dato, perciò, trovandomi di fronte ad una tale onestà di pensiero, ho compreso come non mai in che mondo sto vivendo. Queste due donne erano prostitute, almeno secondo il valore attribuito al termine nel nostro linguaggio, eppure non sapevano nella realtà chi fosse una prostituta. La loro onestà non consisteva in quello che facevano, ma nel vivere in coerenza con quello che avevano capito della vita. Per loro vendere il proprio corpo non era prostituzione, ma semplicemente un mestiere come altri. Per alcuni può sembrare assurdo un pensiero e un comportamento simile, ma se siamo guidati dall'obiettività tutti abbiamo delle opinioni, o diamo un valore alle parole che sembrano assurdi ad altri. Un altro esempio può chiarire questo atteggiamento. Lessi un libro scritto da una persona che era favorevole al divorzio e alle seconde nozze, la quale però in un paragrafo metteva in enfasi che il matrimonio era indissolubile. Gli chiesi come poteva ritenere il matrimonio indissolubile quando ammetteva il divorzio. Il dibattito fu lungo, ma ancora oggi questa persona continua a parlare dell'indissolubilità del matrimonio in un contesto di un divorzio. Questa persona usa il termine indissolubile, ma vuole esprimere tutto il contrario. È importante rendersi conto del valore delle parole e della necessità di avere una comune comprensione di esse, altrimenti non è in nessun modo possibile comunicare o intenderci. Così, il termine matrimonio ha un suo significato, dal quale nessuno ha il diritto di scostarsi. Se il matrimonio è l'istituto giuridico mediante il quale si dà forma legale all'unione fisica e spirituale dell'uomo e della donna che stabiliscono di vivere in comunità di vita al fine di fondare la famiglia, non è possibile chiamare con il termine matrimonio ogni altra relazione che non abbia queste caratteristiche, come per i termini prostituta e indissolubile. Io non posso e non devo chiamare prostituta una fedele moglie o una casta ragazza, perché tale termine, per il significato che possiede, non le si addice. Come non posso chiamare vergine una prostituta? Ogni termine ha un preciso concetto. Non mi è lecito usare una parola secondo i miei punti di vista. L'opinione che ho deve essere espressa con parole appropriate, diversamente esprimo un non senso o un concetto errato. Così è del termine matrimonio. Sostenere che i gay possano contrarre matrimonio non ha senso, perché i componenti non possono contrarre matrimonio nel suo significato intrinseco. Come se io sostenessi che l'ossigeno e l'elio formino l'acqua. L'acqua è formata da ossigeno e idrogeno, e qualsiasi altro componente non può formare l'acqua. È inevitabile perciò che si debba usare un altro vocabolo per il rapporto esistente tra omosessuali, e questo per non creare confusione quando parliamo di matrimonio. Purtroppo vi sono già abbastanza termini che oggi si prestano a grandi equivoci, e per questo vi è molta confusione in qualsiasi campo, soprattutto in quello religioso. Uno di questi termini è cristiano. Oggi è sufficiente appartenere ad una religione che ha elementi religiosi biblici per ritenersi cristiani. Oppure è sufficiente avere una fede vaga in Cristo, o anche professare Cristo per pensare di essere dei cristiani. Ma poiché cristiano è colui che ha una precisa identità teologica, ha una fede cristocentrica e apostolica, è uno nato di nuovo, è colui che ha una vita che da religiosa si è tramutata in un cammino personale con Cristo, poiché un cristiano è colui che ama coloro che sono nati da Dio mediante un atto di fede in Cristo, è colui che odia il peccato e ama la verità. Allora di cristiani ce ne sono molto meno di quanto sembra. Molti saranno indiscutibilmente credenti, ma non è possibile applicare a loro il termine cristiano. Come regolarsi allora con i gay che desiderano vivere assieme ed essere in regola con la società e avere tutti i diritti di chi contrae un matrimonio degno di questo nome? Prima di tutto è necessario cambiare il termine matrimonio quando ci si riferisce ad una unione sociale e sessuale tra gay. Qualsiasi termine appropriato all'unione di due gay potrebbe andare bene e uno di questi potrebbe essere simbiosi. In effetti, poiché due gay non hanno diversità sessuale e non possono procreare, e di conseguenza formare o fondare una famiglia, si può parlare di simbiosi gay e non matrimonio gay. In effetti la simbiosi è il vivere insieme, e questo termine mette in evidenza solo il tipo di rapporto e non tanto il risultato. Mentre il termine matrimonio implica sì una convivenza ma con il presupposto della nascita di una famiglia, il termine simbiosi non ha questo obbligo. Qualcuno potrebbe cavillare che ci sono sposi senza prole, ma anche in questo caso l'eccezione fa la regola. Così se si parlasse di simbiosi gay si metterebbero a posto tante cose, tra le quali il problema psicologico di chiamare un rapporto con un termine che non gli si addice. Inoltre, se parliamo di simbiosi gay, si rendono serene le coscienze rese morali dalla parola di Dio. A turbare chi ha una mente cristiana è chiamare matrimonio ciò che di fatto non è tale, come turba chiamare una vergine prostituta. O non definire prostituta chi vende il suo corpo. Se poi una donna ha relazioni sessuali fuori del matrimonio e non vende il suo corpo, sarà chiamata amante, dimostrando in questo modo come le parole abbiano un loro specifico significato. Se siamo così precisi nei termini per definire cose e situazioni, perché non usare un termine appropriato per le unioni dei gay? Perché i gay, e non solo loro, vogliono chiamare matrimonio questo tipo di unione? Stabilita una terminologia adatta per la convivenza dei gay, rimane l'interrogativo se la loro unione possa essere benedetta da Dio e se il cristiano possa pregare positivamente per la loro unione. Secondo ciò che si trova scritto nella Bibbia, la parola di Dio, il codice morale del cristiano, la convivenza dei gay non è lecita e neppure comandata. Dio non ha mai dato ordine di sposarsi con uno dello stesso sesso. Anzi, lo ha sempre chiaramente condannato, Levitico 18.22 20.13, dichiarandolo tra l'altro contro natura, Romani 1.26, Giuda 7. Perciò, se la società vuole riconoscere la convivenza o la simbiosi dei gay per ragioni che vanno al di là della morale, faccia pure, ma per un cristiano non è possibile ringraziare Dio e pregare per l'unione dei gay, come non è possibile ringraziare e pregare per chi commette omicidio o chi fa parte di una setta satanica. Se l'omosessualità è elencata tra i vari peccati, 1 Corinzi 6.9, 1 Timoteo 1.10, cosa ha di speciale per essere benedetta? Forse perché il piacere e i sentimenti hanno offuscato la mente. 2 Timoteo 3.4. Se così è, l'Homo sapiens deve definirsi con un altro nome più appropriato, Homo stultus. Settembre 2005, Ellero.